Potrei darti tutto, ma tu lo butteresti via, perché è una malattia che mi ha distrutto. La bomba in bocca sopra il palco dal debutto, che me ne sbatto se per qualcun altro è brutto. Vi guardo prendervi in giro da soli, darmi le spalle come i girasoli. Siete bravi a fare gli attori, ma non a togliere il male dai cuori, e ce ne sta un male là fuori. Fanno le vittime con queste critiche. Il mio disco non vi è piaciuto, com'è possibile? Che vivi dentro te stesso, frase insommergibile. Io sto con chi la merda la reputa commestibile. Veri siamo 4-5, ascolta chi distingue quella della verità dalle altre lingue. Che questa gente finge, per 1000 euro ti direbbero che ti portano a casa la sfinge. Siete la tristezza, un soffio, neanche una carezza. I moscerini sopra il parabrezza. Merda, che non c'ho la capezza e no, non vado a messa. Giro con lei, sembriamo la bella e la bestia. Tu che ne sai di me? A parte quattro chiacchiere, viaggiate sulle zattere nelle pozzanghere. Siete il male da combattere, la vostra non è arte. Falsità e cortesia seconda parte. Poveri, coi modi dei ricchi, del travestimento siete gli sceicchi. Dai, prendi quei quattro spicchi, di poco niente. Falsità camuffata da notorietà, come quasi sempre. Che poi sparisce dietro a un altro nome. Il nuovo sacrificio da votare con l'iPhone. Scegli tu il migliore, vai, scegli. Manda un messaggio, scegli tu il migliore. Dai. Più che una scelta, a me sembra una punizione. Fammi la cortesia, dai. Porta via l'ipocrisia. Ti prego. Per fare in modo che l'hip hop ci sia. Suoni sul metal detector, sei bigiotteria. Scrivi un pezzo, partecipa anche tu alla grande lotteria. Degli aspiranti, re del niente. Inventano il presente. Ascoltarvi è come bere il detergente. Che siete falsi, c'è chi lo avverte. Noi portate male, siete il 17. Bella Mauri, per questi batteri siamo l'Auli. Finché ci estinguiamo come i dinosauri. Non sparisco io se hanno fallito gli altri. Non sparisco io se hanno fallito gli altri. Tu che ne sai di me? Dei litri di lacrime. Tu che ne sai di Davide? Tutto è vero e tutto è una bugia. Nascosta tra falsità e cortesia. Ciao.